Al centro del racconto stanno due giovani da bene. Stanno facendo quel mestiere molto moderno che consiste nel credere di rispettare, mantenere, ridare una spinta verso il futuro all'antico. Restaurano affreschi e già in quanto impegnati in questo esercizio raccolgono su di sé tutti quei valori positivi che toccano a chi si oppone all'avanzata del tempo e degli sfaceli conseguenti. Sfruttando poi per di più l'onda forte del rincrescimento di regime provocata dalle scosse sismiche recenti, dove i lutti umani ancora una volta sono stati sacrificati al patrimonio artistico e all'ideologia turistica di cui questo patrimonio è funzione. Restaurano dunque il bel giovine e la bella giovane e, data la delicatezza del compito e l'ormai acquisita scientificità del metodo loro, indossano un camice bianco. Restaurano volti dalle bocche aperte. E gioco forza, per la precisione, stanno ridando l'antico splendore a vetuste dentature. Nel fare assieme scivola il discorso dai denti altrui ai propri e la domanda corre sull'eventuale confidenza. E tu? Tu come fai a mantenerli sani e bianchi? Prima che giunga la forbita risposta, è ormai chiaro che si tratta della pubblicità di un dentifricio. Più tardi c'è un'altra brevissima storia. C'è un tizio nella neve, un tizio che ci sembra di aver già visto da qualche parte, un tizio che nella neve indossa un golfino bianco e che ci consiglia caldamente, il caso di dirlo, il tal dentifricio per la salute dei nostri denti. Anche lui. Ora la memoria viene in soccorso. Deve fare il dentista. Oggi è in vacanza, ma deve fare il dentista perché giurerei che qualche tempo fa stava nel suo studio, nel suo camice bianco, e per consigliarci il medesimo dentifricio interrompeva volentieri il suo lavoro. Questi due racconti e altri analoghi sono frutto di una decisione dell'organo di controllo della pubblicità. Tempo fa si è deciso che rappresentare un dentista o un medico in camice bianco era scorretto nei confronti del pubblico cui il messaggio pubblicitario era destinato. Un attore travestito da medico, nel momento in cui pubblicizzi un prodotto più o meno attraente, più o meno attinente, scusate, alla vasta e indefinibile categoria dei medicinali, si arrogherebbe un diritto improprio. Sarebbe sleale nei confronti di chi in lui vede un vero medico, facilitato in ciò proprio dall'ambiente in cui parla, no? E dal camice che indossa, ovviamente. Ecco che allora, fidando nel potere persuasorio dell'analogico, i camici vengono sostituiti dai golfini e dalla neve, o che il medico della persona in carne e ossa si fa sostituire dal medico dell'immagine che se ne va, o da altre persone molto sicure di sé e apparentemente meritevoli di fiducia incondizionata. In questa lodevole iniziativa, tutta in favore del consumatore, tuttavia, c'è qualcosa che non quadra. Un'estensione del concetto, infatti, porta dritto dritto ad una palese discriminazione. Non si capisce il perché, allora si veda in divisa militare il colonnello che invita ad arruolarsi, perché poi non si capisce perché si veda in tonaca il prete che invita il contribuente a versargli l'8 per 1000, o perché si veda il salumaio dietro il suo bancone e nel suo grembiule invitare all'assaggio di quella mortadella sopraffina o di quel prosciutto marchiato a fuoco solo dopo il parere favorevole di una selezionatissima commissione di esperti. Se il contesto e l'indumento a costituire l'atto di slealtà nei confronti del consumatore, allora sarà opportuno che il colonnello, che so, ci parli dalla vasca da bagno di casa propria, come che il prete ci parli in tight dal Crazy Horse di Parigi, oppure come il salumaio in tuta da jogging da un parco cittadino. Nessuno è obbligato a pensare che si tratti di un vero colonnello, di un vero prete, di un vero salumaio, eppure tutti costoro possono elargire i propri consigli senza smettere i panni del vero colonnello, del vero prete e del vero salumaio. C'è una discriminazione. E l'origine di questa discriminazione non è difficile da individuare. Fatto è che è proprio la scienza in generale e la scienza medica in particolare viene investita di valori impropri come quelli della certezza e della sovrastoricità dei suoi asserti. Un'insradicabile ideologia realista fa sì che lo scienziato sia caricato dell'inestricabile e contraddittorio compito di raccontarci come è fatta davvero la realtà e come vanno davvero le cose al mondo. Come se quel che osserva non sia, come ciò che osserviamo tutti noi persone normali, anche esito di una costruzione sua, e sia invece la copia esatta di qualcosa esistente di per sé, colta da lui in grazia di chissà quale virtù. Se le cose dovessero essere considerate così, la storia della scienza sarebbe una storia di scemi, perché annovererebbe soltanto errori corretti da altri, i quali a loro volta sarebbero in attesa di essere corretti da altri ancora, e via così. La scienza degli spot pubblicitari, insomma, riproduce e ratifica una casta di intoccabili che, in quanto tali, non possono venire falsificati neppure per scherzo, pena la diminuzione del loro potere. Non ci si stupisca, poi, se queste investiture sacrali, appena casca l'asino, ottengono l'effetto di sane rivolte popolari, perché nessuno può pretendere che i pazienti poi siano pazienti all'infinito. A Disneyland l'estate scorsa ha avuto inizio un curioso iter giudiziario. Una nonna ha condotto i suoi nipotini a vedere uno spettacolo dove dal vivo di pupazzi abitati da persone in carne ed ossa appariva fra gli altri il personaggio di Topolino. Può darsi che, come vorrebbero gli organizzatori, il divertimento per grandi e piccini sia stato assicurato. Tuttavia, come tutti gli spettacoli, anche quello spettacolo finì. E caso volle che, come ogni attore al termine delle sue fatiche, l'attore che impersonava Topolino si spogliasse degli abiti di scena per tornarsene agli affari propri. A quanto pare, però, non attese che tutto il pubblico fosse sfollato e dunque uscì anche materialmente dal proprio personaggio in presenza di quella nonna e dei suoi nipotini. Nonna che fece causa all'organizzazione per distruzione indebita di personaggio. Aveva pagato per un percetto, chiamiamolo così, per una sua identità, e credeva di poter pretendere quello che di norma si chiede da parte di tutti noi ai percetti provvisti di identità, di durare almeno in quel contesto per l'accesso al quale aveva pagato. Sleale, perlomeno nei confronti dei suoi nipotini, era vendere un topolino che si rivelasse irrimediabilmente qualcosa d'altro. Il caso conferma il potere ideologico dell'abito di scena, cui spesso tocca un'estensione funzionale sicuramente impropria. La maschera di Topolino farebbe davvero Topolino, e il camice farebbe il medico, nonché tutte le sue prerogative, garanzia del risultato e sicurezza della via per giungervi. Ma non tutti gli abiti farebbero altrettanto monaci, perché se soltanto il camice diventa un grembiule, ci accorgiamo che le cose vanno diversamente. L'estensione funzionale truffaldina è la stessa, ben inteso, ma al momento il medico può più del salumaio.